Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. No! L'assassinio di John Kennedy non ha subito quello che ha subito il sottoscritto, ma questo rientra nelle umane cose in un paese che sicuramente ha bisogno di non avere obiettivi che sono di non accoglienza. Adesso andiamo contro a una stagione particolare, perché chi dirà, insomma, se li dico con un ragazzo di colore in campo e gli dico tu mangi le banane, sarà una gaffe, quindi guai a squalificarmi, quindi parte la battuta, sono cose abbastanza pesanti che, ripeto, sicuramente non è un razzista come ha detto lui, questo non lo giudico, però insomma un presidente federale dovrebbe pensare a quello che dice e a quello che può succedere dopo. Quando una persona è inadeguata, non è inadeguata solo perché ha dei demeriti particolari, è perché è una storia che a un certo punto non ti può permettere di ricoprire un certo tipo di incarichi. Poi se questo tipo di incarico è un incarico, come c'è in questo momento una necessità di cambiamento, di migliorare la Federazione Italiana Gioco Calcio, di certo non può passare attraverso, anche secondo me, una figura di questo tipo. Ci vorrebbe qualcosa di diverso, noi quel qualcosa di diverso l'abbiamo individuato in Demetrio Albertini. Che in questo momento ci sia solo una persona adeguata a quel ruolo, a quella carica, e che possa portare avanti il futuro del calcio italiano, e che è Demetrio Albertini. Questo giusto per tenervi aggiornato il diario, frase di Tavecchio: sono stato trattato peggio dell'assassino di Kennedy. Per la storia, per la storia, non per la cronaca, Harvey Lee Oswald, presunto forse ancora assassino di JFK, fu ucciso a pistolettate due giorni dopo, ma vabbè. Poi abbiamo sentito De Rossi, Inzaghi, Chiellini, questo per la cronaca. Ancora una settimana di campagna elettorale, poi lunedì prossimo finalmente ci siamo, avremo il presidente federale. 800 24 00 24, numero verde, Pardo in vacanza, Piantarini in vacanza, oggi Claudio Scattone in redazione, Fabio Cantadone in regia, noi siamo con voi invece per tutta l'estate, dalle 14 alle 15. Vabbè, facciamo le vacanze qui. Allora, Emiliano Mondonico ha lasciato la campagna per l'unico altro campo che ha un senso, cioè quello da calcio, ma è un campo da calcio speciale che ci aveva già anticipato. Ciao Mondo. Ciao a voi lavoratori indefessi, complimenti. Anche a te, eh? Come va lì? Alla guida di una squadra che non esiste. Mezza giornata al giorno. No, ti dirò che peccato ieri a Com, che si era in campo allagato e è saltata l'amichevole. Ti dirò che ero a due caselli da Como quando mi è arrivata la telefonata e la partita era stata sorpresa. Ho fatto una ricca inversione di marcia e sono tornato a casa. Mi spiace perché volevo vederlo ieri contro questa squadra di Lega Pro. L'avevamo tatticamente addirittura preparata. Eh sì, perché ogni tanto c'ho lo spirito dell'allenatore, c'ho lo spirito di chi non vuol perdere, c'ho lo spirito di chi vuol mettere in difficoltà praticamente l'avversario. Beh, chiaro, ti stai allenando anche tu, no? In fondo? Dimentico che invece la logica è quella di far giocare tutti questi ragazzi, perché tutti devono avere la possibilità di mettersi in mostra, e perciò è chiaro, così il piacere di continuare a sognare. Ti dirò che ieri sera ho riflettuto molto sul fatto che volessi fare una gara tattica, perché non è giusto fare una gara per far giocare tutti questi 20 ragazzi che ho a disposizione, a prescindere dall'avversario, dalle idee tattiche, da tante cose, dal contropiede, dal catenaccio. Diciamo che l'importante è che questi ragazzi si mettono in evidenza giocando nel loro ruolo, spesso e volentieri giochiamo con 5 attaccanti, però è giusto così, perché se sono attaccanti devono mettersi in evidenza in questo ruolo, e questa è la grande differenza che ho, sì, che ho trovato. Com'è come tipo di esperienza? Ricordiamo, lo sanno tutti, no? Quindi la squadra lombarda dei giocatori al momento svincolati, si chiama Equipe, ti stai probabilmente allenando anche tu, ma com'è questo tipo di esperienza? Il tipo di esperienza, a parte che è un'esperienza che è un po' tutta in tutte le regioni, ogni regione ha la sua Equipe, e perciò ha dei ragazzi che in questo momento sono senza contratto, qualcuno o più di uno che ha una famiglia da mantenere, e chiaramente senza contratto, senza una squadra, non sai come fare. Mi fa piacere che la mia presenza ha contribuito magari a dare interesse a questo lavoro fatto da privati, perché non, sì, Coverciano, questo lavoro per quelli di Serie A e di Serie B, ma quelli delle serie inferiori, quelli che giocavano in C2, purtroppo la C2 è scomparsa. Sì. È chiaro che anche questi hanno bisogno di una mano, e vedo che in ogni parte d'Italia c'è un'associazione o qualcuno che gli dà una mano. Io mi sono aggregato, anzi mi hanno cercato questo presidente Frigerio dell'Equipe Lombardia e mi è sembrato, e ho capito subito che c'era molto del sociale, sì, della voglia di questo presidente di dare una mano. E allora mi sono buttato a capofitto con le mie problematiche che vi ho detto prima, con molto entusiasmo, ti dirò, anche con molte idee. Per esempio, scusami se mi dilungo, un'idea è quella, prima dell'allenamento, di farli incontrare con un testimonial. Per esempio, un testimonial della nazionale amputati, quei ragazzi, sì, che giocano con la stampella perché hanno perso un arto, hanno perso una gamba. E perciò far capire come se hai voglia di lottare, l'entusiasmo è sempre grande, e la tristezza, la depressione non fanno parte del mondo di chi ha sempre comunque voglia di lottare, di combattere, non si è da mai vinto. Certo, ecco, perché non è sotto questo punto di vista. È stata ancora un'esperienza più bella, è ancora un'esperienza più bella. Certo, perché non dimentichiamo che da un lato il lavoro il calcio è un lavoro, e quindi va preso seriamente, dall'altro lato bisogna avere senso della misura, è così, no? Assolutamente, assolutamente. Io penso che quando hai il senso della misura, è chiaro, sei maturo, sei pronto per qualsiasi evenienza, sei pronto a non mollare, sei pronto come noi da domani, che in 5 giorni facciamo 4 amichevoli. Domani andiamo ad Asti e chiaramente sarà un amichevole. Mercoledì mattina la facciamo lì a Mondello contro una squadra di ragazzi stranieri. Giovedì siamo ancora impegnati. Venerdì siamo così e così, e dopo sabato e domenica ancora in pieno contro queste squadre di Serie D. Tempo pieno, non un attimo di respiro. Senti Mondo, invece di chiedere un istante di pazienza, per sai che abbiamo un appuntamento con il traffico, non so se oggi sei in viaggio. Sto viaggiando su e giù per il porticato in Cascina. Ok. Va bene, allora il traffico non ti riguarda però quelli che magari stanno andando in vacanza. Strade, c'è il traffico. Certo. No, allora voglio dire una cosa. Dilla. Ve la dico? Sì. Sembra che Raikkonen stavolta sia imbottigliato sulla Lecco Colico. Tutti convocati. Sono crescerò e nel cielo della vita volerò. Ma un vivo che ne sa, sempre sola non può essere l'età. Il vento sulla pelle, mondo. Guarda che noi ti seguiamo con attenzione anche quando canti, qui con i Nomadi. E quel bambino che giocava in un cortile, io. Dai, grandi Nomadi. Grandi Nomadi, alla festa dell'Atalanta. Noi ti seguiamo con attenzione. 2 ore e un quarto abbiamo fatto di concerto. Mi sono venuti i crampi alla mano. A suonare la chitarra. E io cambio a secondo della situazione. Diciamo che finché le mani andavano bene, ho seguito un po'. Chico, che chiaramente è un chitarrista incredibile, io lo seguivo, guardavo un po' le dita e cercavo di, non di farlo come lui, ma di accompagnarlo. Poi mi è venuto i crampi alla mano sinistra perché probabilmente impugnavo troppo forte la chitarra, e allora ho cominciato a cantare. E sono state 2 ore e un quarto, se dico, trascorse da grande con la gente che cantava con noi. Nomadi. Ecco, alle volte sì, adesso si parla quasi mai delle feste popolari, no? Ormai sono andato in disuso, in disarmo, chissà perché, o forse è giusto così. Ecco, quando ci sono i Nomadi è una festa popolare, perché cantano tutti e loro sono amici di tutti, si concedono a tutti. Guarda, è proprio un gruppo, sono dei ragazzi di disponibilità incredibile. E forse per quello sono miei amici, oppure mi hanno scelto come amico, e lì è stata una bella serata. Sai, queste teste di calcio dopo vengono trasformate in tutte altre cose, perché il calcio è fatto anche di un concerto dei Nomadi. Ma chiaro. Sì, cioè, dopo ho sentito all'inizio questo scontro politico, o non so come chiamarlo, che vi è in questo momento, che alla fine vediamo che cosa succede. Ma in tutta onestà Emiliano, può diventare presidente federale del calcio in un momento di crisi profonda uno che è un signore che ha fatto anche bene il suo lavoro, la Lega Nazionale Dilettanti, eccetera, ma che ha questo tipo di immagine pubblica? Ma io penso che non sia, cioè, è chiaro che la frase è stata infelice, ma non mi sembra che sia un personaggio di questo tipo, anche perché se fosse un personaggio di questo tipo difficilmente in una situazione di questo tipo uscirebbe con i suoi principi. Sai che questi personaggi buttano il sasso e ritirano la mano. Questo chiaramente penso che ha avuto una frase infelice, non è stato quello che ha buttato il sasso e ha ritirato la mano, e questo penso sia importante. Però al di là di quello, secondo me, che cosa porta tutta questa problematica? A dover scegliere un allenatore della nazionale fortissimo, un allenatore della nazionale con grande oltre che qualità, proprio con cattiveria, con stimoli. Ecco perché ritengo che in questo momento Conte sia l'unico che può guidare la nazionale. Perfettamente d'accordo. Dandogli quello che gli ha dato la Juventus, perché in questo momento l'allenatore deve essere al sopra delle società, della società, della federazione, perché è chiaro che queste diatribe non finiranno dopo l'elezione, ma andranno avanti, perché ci sarà quelli di una parte e quelli dall'altra. Evidente, e andranno in Lega, e sono cose che si rifletteranno sulla Lega, poi si parlerà di diritti televisivi, di quattrini, e saranno le stesse squadre, ma è quello che ho detto l'altro giorno ad Abodi, presidente della Lega B, che è stato nostro ospite. Ecco, diceva, questo è un grande personaggio. Sì, ma lo so. Sai che io faccio parte del codice etico della Serie B, e ho in mente di dirgli qualche iniziativa particolare, ma mi sono trovato veramente, quando mi ha chiesto di far parte del comitato etico, di fronte a un signore nel vero senso della parola, e anche questo mi ha convinto a fare quest'altra cosa, che magari ne parleremo la prossima volta. Ma molto volentieri. Stavi dicendo? No, diceva ma forse un tecnico federale. Io dicevo, no, serve un allenatore di grande carisma, di grande profilo, è indiscutibile. Anch'io sono d'accordo con te, in questo momento serve un allenatore sopra le parti. D'altra parte, la nazionale è un po' nella condizione in cui era la Juventus dopo Del Nero, dopo quelle stagioni, no? Una squadra da settimo posto. E serve un allenatore che abbia carisma e che abbia anche il certificato dei risultati ottenuti, cioè uno che non può essere messo tanto in discussione. Io che ho fatto che ho fatto l'allenatore per tanto tempo, cioè, il massimo è che tutti tirino dalla stessa parte. Mm-hmm. Certo. L'importante è che ci sia, quando non c'è una società e non, e l'allenatore è scarso, che ci sia un gruppo forte, che è il gruppo che trascina tutto il resto. Sì, l'importante sì, è che ci sia una società forte, quando i risultati non vengono e l'allenatore è così e così, importantissimo che ci sia un allenatore che si tira dietro tutto quando la società e il gruppo giocatori non è chiaramente di livelli, di livelli ottimali. In questo momento mi sembra proprio che sia questa ultima identificazione che, che deve privilegiare, non cioè ci uno sono grossi che dubbi. Deve trascinare tutti gli altri. Non ci sono grossi dubbi su questo. C'è Roberto Granata che mi manda un messaggio: ma Ventura alzerà la sedia? Io non so se Ventura alzerà la sedia. No, non ci sono più. È che non ci sono, non sono più le sedie. O alza la panchina, o adesso ci sono le poltrone in panchina. Sai alzare la poltrona, che figura di merda. No, però però un cartone al vetro della panchina si può sempre darlo. No, mi sembra che abbiamo visto anche quello. Però sai, la sedia, ti dico, nelle osterie, quando io ero un ragazzino, scemo tu, scemo io, e si alzavano le sedie, sedie che partivano. Adesso cosa fai? Alzi del poltrone. No, è più difficile. Ascolta Emiliano, mi togli una curiosità. No, leggevo che Del Piero potrebbe arrivare lì con te ad allenarsi, no? Perché ha detto che non smette di giocare, ha 39 anni, non ha una squadra, anche uno degli svincolati di lusso, c'è ce ne sono Ciambrosini, c'è Cambiasso, ce ne sono. Ma quando per un giocatore è il momento di darla su, come dicono a Bologna? Spesso e volentieri è l'incidente che ti convince a smettere, perché il giocatore, e ti dico anche per esperienza diretta, ha così una grande autostima di se stesso che per lui non è mai finita, che per lui giocherebbe fino a chissà quando, che trova sempre qualcuno che gioca che è peggio di lui. Cioè, la grande autostima di se stessi è la grande forza di un giocatore, perché lo aiuta a superare tutte le pressioni, tutte le difficoltà. Però questa grande autostima non ti dà il tempo di pensare è finita. È finita quando? Quando ho in banca 50 milioni di euro? È finita quando? Quando ho 32 anni? È finita quando? Quando gli altri mi passano davanti e non la prendo più? Ma se ho una grande autostima, come faccio a capire che tutti mi passano davanti e io non la prendo mai? E se è colpa degli schemi che non sono capace di farli. Certo. Capisci? Perciò in questo momento ti dico, quando vai in una rosa, gli anziani o sono tuoi uomini, spesso è gente che ha fatto con te, hanno fatto le fortune, allora è chiaro che sono utili perché riescono a tenere lo spogliatoio, riescono a far sì che tutte le cose vengono fatte nella maniera migliore. Quando invece hai degli anziani che incontri per la prima volta e non li fai giocare, è un problema. Cavoli amari. Perché di riffo dirà, e questo qua è un difensivista, e questi qua è un catenacciaro, e non proviamo mai qui, e non proviamo mai là. Tutto perché loro non giocano, no? Possono tirare fuori di tutto e alla fine purtroppo trovano anche quelli che ci credono. E allora ti mandano via. E tu gli dici, sì, andate a fare il bagno. Adesso poi che è estate, si può fare. Ho sentito con piacere che c'è traffico sulle strade, perché vuol dire che la gente va in vacanza. Ieri sono stato a Linate a prendere la mia nipotina che tornava dalla Sardegna con mia figlia, ti dirò che c'era il delirio. Sì, eh? Però, bene che tutti sentano e abbiano la possibilità di andare in vacanza. Noi lavoriamo, caro mondo, noi lavoriamo. Noi siamo in defessi. Senti, ti abbraccio. Ciao Emiliano. Un abbraccio anche a te e grazie per lo spazio. Ciao, come sei, ma è solo un piacere, Emiliano Mondoni, che tu lo sai. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti. 800 24 00 24, noi siamo qui in diretta a parlare con Francesco Da Luca, dopo Emiliano Mondonico, Francesco Da Luca, Pasquale della provincia di Foggia. Francesco, buongiorno, un altro giorno. Pasquale. Buongiorno. Buongiorno, mi dica. Io sono un grande tifoso del Milan. E voglio sapere, io ho visto le partite che ha fatto il Milan nella tournée. Sì. Voglio dire, in 3 partite ha subito 10 gol. 10-1. Peggio del Brasile. 10 gol ha subito. Ma il caso di Inzaghi è che deve aggiustare un po' la difesa. E poi voglio sapere un'altra notizia sul caso Balotelli. Se parte Balotelli, il Milan chi prenderà? Voglio sapere questo. Ma guardi, allora, partiamo da Balotelli, che è più facile. Nelle ultime ore si era diffusa la voce di un presunto interesse del Liverpool per Balotelli. C'è una questione di soldi, pare, ed è sempre questa la voce, che il Liverpool non fosse disposto a spendere più di 18 milioni, il Milan ne chiede 25 o giù di lì. Non so come andrà a finire questa storia, non so se e quanto Balotelli sia realmente sul mercato. Certamente, con tutti i difetti, eppure in un momento di, insomma, in un momento come quello che sta vivendo, professionale naturalmente, Balotelli dopo un mondiale sbagliato, dopo, insomma, è chiaro che è un giocatore le cui quotazioni sono in ribasso, è uno dei, e questo credo sia oggettivo, è uno dei pochi valori monetizzabili che ha il Milan in questo momento. L'altro può essere De Sciglio, gli altri ditemeli voi, perché io non è che ne vedo poi questo granché. Se io credo che il Milan farà una spesa sul mercato reale ed effettivo, in questo momento si parla di Cerci, si straparla di Lavezzi, si fanno mille altri nomi, Inzaghi avrebbe chiesto anche un portiere e probabilmente ha ragione. Credo che il Milan farà una spesa seria soltanto in caso di cessione di partenza di Balotelli, di chi per esso, quindi in caso di introiti. Pertanto non credo molto alle voci secondo cui appunto potrebbe arrivare uno degli esterni di qui sopra, perché lì si parla di una ventina di milioni di euro e non credo che il Milan in questo momento abbia la possibilità di spenderli. Quanto al resto, anch'io ho visto le partite o parte di esse della tournée americana. Sinceramente l'altra sera con il Liverpool il Milan non mi ha fatto una brutta impressione, però ha sempre preso due fischi, ha sempre perso 2-0, ha sempre subito un rigore che è stato parato, quindi è stata una sconfitta netta. 3 partite, 10-1 in totale. In questo momento al Milan, anche sul fronte delle amichevoli internazionali, il Milan non ha moltissimo credito da spendere che non sia il suo nome e il suo palmarès. È chiaro che per i grandi club italiani, o per quello che ne rimane, è un compito normale quello di andare in giro d'estate a rastrellare il grano. Però questo Milan onestamente non mi sembra abbia molto, molto appeal, ma le squadre italiane tutte non hanno molto appeal, perché a me ha fatto davvero impressione il dato degli spettatori dell'altro giorno. Per Inter-Roma ce n'erano 12.000 a Philadelphia, per Real Madrid-Manchester United, da un'altra parte in Michigan a Ann Arbor ce n'erano 109.000. Ora, non so dirvi quale sia il livello della passione del pubblico di Ann Arbor, Michigan, piuttosto che di quello di Philadelphia per il calcio, però il dato all'interno della stessa competizione mi sembra abbastanza evidente. C'è chi invece, e poi ne parliamo anche con voi naturalmente, 800240024, pur senza spendere molti soldi, come insomma ormai politica del Milan, con un mercato extra light sta facendo molto bene, ed è la squadra che sta sull'altro lato del naviglio, l'Inter. Tutti convocati. You wanna be American? Sterling, e poi c'è il gol alla fine di Joe Allen, passa in vantaggio il Liverpool al 17° minuto. Il tocco ancora per Suso e c'è il raddoppio del Liverpool che chiude i conti con una bellissima azione di contropiede in sinistro di Suso. 2-0. Sono contento, dispiace per il 2-0, è immeritato, però insomma era la risposta che aspettavo. Adesso non possiamo guardare il risultato, perché come dicevo ieri, contro queste squadre siamo troppo distanti. Parte Dodò, suo sinistro, colpo di testa, gol di Nemanja Vidić. Inter in vantaggio al 46esimo minuto. Palla buona per Nagatomo e c'è il gol di Yuto. Nagatomo raddoppia l'Inter. Bel avvertimento per la squadra, perché va bene che sia una partita amichevole e quando saremo nella competizione vera non dobbiamo fare una partita come quella dove non c'è quasi niente da dire di positivo. Rapido riassunto di alcune delle cose che sono successe nel weekend americano, come detto, con l'Inter che ha battuto 2-0 la Roma, il Milan che ha perso lo stesso punteggio con il Liverpool, Inzaghi che dice ma non possiamo raffrontarci queste squadre, ma in questo momento il Milan certamente non può raffrontarsi nemmeno, non può confrontarsi nemmeno con l'Inter, che invece per quanto può contare ora si è confrontato alla pari con il Real Madrid, con il Manchester United e appunto con la Roma. Mi sembra che la distanza sia grande, mi sembra che il lavoro di Inzaghi sia difficile. Poi si continua a parlare di attaccanti e di esterni, ma io leggo il roster del centrocampo del Milan e vedo e sia il Montari, De Jong, Saponara, Poli, Cristante, in attesa di recuperare Montolivo. Non mi sembra tantissima roba, si tratta di capirsi su quali sono i competitors del Milan in questo momento. I competitors del Milan non sono certamente il Liverpool, che tra l'altro Rogers ha nelle ultime ore ha detto che Balotelli non interessa poi così tanto, non sono il Liverpool, il Real Madrid, il Manchester United, ma non è neanche l'Inter, non è neanche la Roma, non è nemmeno la Juventus. Cristian da Milano, buongiorno, 800 24 0024 in diretta con voi sempre. Buongiorno Cristian. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo parlare del mercato dell'Inter in quanto interista. Devo dire che non sono molto contento, nel senso che giocatori forti che ci permetteranno di vincere lo scudetto non ne sono arrivati. Però devo dire che mi sembra un mercato, per la prima volta nell'era post Moratti, un mercato intelligente. Molto. Nel senso che l'era Moratti era contraddistinta da doppioni, tripli, quattro giocatori per un ruolo, no? Anche oggi noi abbiamo Guarin, Alvarez, Botta, tutti giocatori che Kovacic, sono quattro giocatori e ne può giocare uno in fin dei conti. Sì. E mi sembra che si stia cercando di mettere ordine in questa cosa. È certamente così. Cosa che non avviene, ad esempio, dall'altra parte di Milano, come diceva lei, dove hanno 12 punte, di cui mezza valida. No, dall'altra parte di Milano hanno un'intera squadra da ricostruire, mentre mi pare che l'Inter abbia già avviato la ricostruzione di una squadra che certamente non ha i lampi, non ha neanche le suggestioni, non ha i nomi del passato che lei citava, perché spesso lì entrava in gioco l'amore del presidente, il suo orgoglio e anche i suoi soldi, certo. No? Entravano in gioco queste componenti, ok, mi piace questo giocatore, sono innamorato di questo giocatore, me lo prendo e festa finita. In questo caso si ragiona in maniera diversa, è un Inter con molti meno lustrini, ma con un progetto diverso, tanto è vero che io ne sono convinto, non so se lei è della mia idea, che davvero questa squadra sia funzionale alle idee di Mazzarri. Oggi Sconcerti sul Corriere della Sera nel suo corsivo ha usato la definizione più azzeccata: per quello che sembra questa squadra c'è una provinciale di lusso. Esatto, è vero. Però mi faccio aggiungere, perché l'altro giorno ho sentito che avevate in onda anche Fabio Monti, no? Sì. Che forse il giornalista che segue di più l'Inter. Sì. Quello più vicino alla squadra. Io non rimpiango, come fa Monti, gli argentini, non rimpiango gente che ci ha dato tantissimo, fortissima, che abbiamo amato, ma voglio dire, no, ma lui potevamo nemmeno, comprare un giocatore al posto di Cambiasso in quel ruolo perché c'era Cambiasso. No, ma lui nemmeno, lui nemmeno. Ma insomma, mi sembrava un po', un po' diversa. No, non l'ho capita così, altrimenti gli avrei chiesto, ma Fabio Monti lo conosco bene e conosco il suo pensiero, non si può rimpiangere la colonna, cioè può rimanere nei ricordi e se sei interista. Mario Boni, buongiorno. Buongiorno Carletto, buongiorno, sento parlare di Inter, la mia certo. Inter. No, dicevamo, rimpiangere gli argentini non si può. È un gran bel ricordo, eccetera, eccetera, però era ora di girare quella pagina. E stavamo dicendo con l'ascoltatore che questa squadra che sta nascendo, sei d'accordo con la definizione provinciale di lusso? Cioè, a me non piace definire l'Inter una provinciale di lusso, devo essere, mi piace pensare l'Inter come una ex nobile decaduta che sta rientrando, cercando di mettere i paletti, soprattutto con la stabilità finanziaria. E dopo vediamo un po' cosa fare, anche se io credo che quest'anno al di là del quarto o quinto posto non si possa andare, ecco. Proprio provinciale no, però ecco, stiamo ritornando. Sì, dall'altra parte del fiume stanno messi peggio però i cuginetti. Sì, infatti stavo ridendo a leggere i commenti, che il nostro grande Pippo Inzaghi che cerca di arrampicarsi sugli specchi con 10 gol subiti e uno fatto, insomma. Peggio del Brasile. No, comunque l'Inter, dai, tutto sommato, a parte questa maglia, non so, da interista, quella maglia nera con le righine, ti piace? No, terrificante. Terrificante. No, dai, il marketing fa questo e altro. L'importante è che, insomma, questa tournée americana ci abbia visto un po' meglio dell'anno scorso. Però, sai, io sono perché, cioè, le partite di agosto valgono quello che valgono. Ma non valgono niente, però qualche idea si vede, cioè, se mi ma dici io non che... capisco, Carletto, perché continui, cioè, va bene il 3-5-2 come vuole giocare Mazzarri, ma la difesa 4, un qualcosa un po' più di spinto, un po' più offensivo, un po' più brillante per fare anche innamorare i tifosi interisti, ecco. C'è qualcosa di più hard, tu dici, qualcosa di più osé. Non credo che lo vedrai con Mazzarri, ma comunque. Esatto, però siamo lì in attesa, sai, vediamo, adesso 3 partite non fanno primavera e speriamo bene. Senti Mario, ma anche a te voglio chiedere un'opinione sul presidente federale, può diventare presidente della Federcalcio uno che parla di banane? No, dai, non può, sai. Ma al di là che poi, insomma, è un vecchio, come dire, della nomenclatura del calcio, non so, 27 anni, 30 anni che è lì, ma poi bisogna avere anche un certo aplomb, capacità di parlare in pubblico, ecco, Travecchio ha tutto tranne che queste caratteristiche. Poi di fronte a una gaffe del genere ha detto bene De Rossi, scusa, se capita uno in campo di dire, fare un'espressione o fare una battuta del genere, non può essere squalificato. Certo, o come fai a chiudere una curva? Esatto, bravo, stavo per dirlo, non puoi neanche chiudere una curva, quindi al di là che non mi piace Albertini, che lo vedo proprio moscio, Travecchio non può rappresentare la continuità del calcio italiano se vuole cambiare, se vuole dare portare un vento di novità. Sì, poi è chiaro che in tutta questa battaglia ognuno ha le sue idee ed è giusto che se le tenga e che le difenda, perché da un lato posso essere d'accordo, nonostante i modi, insomma, le infelici battute di Travecchio sono state sottolineate dall'opinione pubblica con una forza che è stata notevole, cioè onestamente gli abbiamo fatto tutti quanti un bel culo a Travecchio, eh? Ma è giusto, ma adesso è cambiato. Beh, il mondo, Carlo, è cambiato, c'è Facebook, c'è Twitter, è cambiata la comunicazione, non si può pensare di ritornare agli anni 50 dove aspettavi le notizie di stampa il giorno dopo o la radio o la BBC inglese. Qui le notizie corrono sul web e tutti possono dare il loro punto di vista, bisogna stare doppiamente attenti, ecco perché è giusto che Travecchio non vada via, perché non è al passo con i tempi. Mario, invece, morivo dalla voglia di farti questa domanda, Hackett come lo mettiamo? Hackett è il mio idolo, in assoluto, io mi sono espresso in tal senso, anche se ha sbagliato. Voglio mettere, diciamo chiaramente, che non ci si comporta in quella maniera. Io credo che però anche qui sia stato un errore di comunicazione e forse Pianigiani avrebbe potuto fare in maniera diversa, magari chiamando Hackett prima della convocazione, chiedendogli se aveva bisogno di altri 10 giorni. Sì. E poi ricordiamo, Carlo, che le ultime partite Hackett non stava effettivamente bene. No, sono d'accordo Mario, non stava bene, però c'è modo e modo. Cioè... Esatto, no, c'è modo e modo, non doveva comportarsi in quella maniera, però Carletto, 6 mesi di squalifica sono troppi. Sì. Già la nazionale non fa benissimo, già la pallacanestro non è che abbia un'immagine così esaltante sui giornali. E poi ci mettiamo anche che un ragazzo come Hackett, metà americano o metà italiano, che potrebbe essere anche un punto di riferimento di ragazzini, succede questo casino e non va bene, cioè a me non piace. Io mi auguro che Petrucci, che può fare qualcosa, ecco, riduca questa squalifica e si ricomponga quello che è successo. Sì, un'altra cosa strana però è stato quel comunicato dei compagni di squadra, anche nella dinamica della pallacanestro, ne parlavamo l'altro giorno con Luca Chiabotti, insomma è una cosa che non ha precedenti, cioè compagni di squadra che si che fanno un comunicato pubblico dandolo all'Ansa contro un altro compagno. Questo mi è sembrato molto strano. Assolutamente. Io ho un ruolo un po' difficile perché sai che sono vicepresidente, certo, dell'associazione dei giocatori. Quindi al di là che noi difendiamo sempre Hackett per quello che ha fatto, nonostante abbia sbagliato, ci tengo a sottolineare, devo dirti che mi ha un po' sorpreso il comunicato, perché hai detto bene, non si è mai visto che dei giocatori, dei compagni di squadra facciano in maniera pubblica un'uscita del genere. In genere, nella maggior parte dei casi, si risolve nello spogliatoio. Io credo però che il comunicato l'abbia scritto la federazione, sotto, cioè i giocatori sotto dettatura. Sì. È un'immagine, ripeto, che svilisce quello che vuole trasmettere la pallacanestro. Non è bello quello che è successo, perché per adesso in questo momento si parla solo del caso Hackett e non di quello che può fare la nazionale. Non è una cosa positiva. No, certamente non è una cosa positiva, ma il caso ha fatto molto rumore, così come quei 6 mesi di squalifica, che sono d'accordo con te, mi sembrano una punizione eccessiva, anche perché praticamente vuol dire togliere a un giocatore un'intera stagione, un intero campionato. Esatto. Anche in questo caso forse abbiamo esagerato, no? Sì, qualcuno può dire, a me la pena è quella, e 5 mesi più quello che ha scritto su Facebook più uno, però io dico, si poteva trovare una causa diversa, lì la diplomazia, la politica avrebbe dovuto comportarsi in maniera diversa, trovare una causa diversa e dare una pena diversa. Quindi è ovvio che il regolamento dice che per quel tipo di atteggiamento ci sono 5 mesi, però io avrei trovato una causa diversa e forse magari un paio di mesi di qualifica, magari a giugno, a luglio, agosto, insomma, trovare la maniera di riabilitare Daniel Hackett prima. Mario, ti posso chiedere un attimo di pazienza, poi ti faccio ancora una domanda, perché sto guardando sul web un certo video, poi te lo spiego, te lo racconto. Convocati. Hanno fatto dei risultati veramente importanti, 2 pareggi contro Manchester e Real, la vittoria in quel modo contro la Roma, subendo solo, se non sbaglio, 1 gol in 3 partite. Veramente hanno sorpreso e possono davvero fare una grande annata. Questo era il Chiello Chiellini sull'Inter. Chieda a Boni se dopo Billeri viene anche lui a Pistoia. Madonna, ti ricordi? Non sai che ho preso un tuffo al messaggio, cuore. Messaggio Marcello, questo. Francesco lo scrive. Marcello Billeri. Billeri, che è stato il mio allenatore a Montecatini nell'85, pensa quanti anni che sono passati, è andato a Pistoia. Un tuffo al cuore, però tu sai che per me c'è un muro al Serravalle che divide la Val di Nievole da Pistoia, quindi non... Cioè, non andare a giocare a Pistoia, ti prego. No, questo cioè, neanche non ci no, penso neanche. Se no veramente ti spernacchio per un anno intero. Ma continuo con la mia Monsumano in Serie B, a 51 anni, quindi evviva il basket. Ma prima parlavo con Mondonico. Quando arriva il momento di darla su per un giocatore? Perché anche Del Piero vuole fare come Mario Boni, 39, ma mica smette. Ma non è fatto, cioè, ognuno deve poi trovare il piacere di fare qualcosa. Io credo che la pallacanestro sia una cosa straordinaria ed è bello giocare, e finché mi diverto e mi confronto e trovo soddisfazione, perché smettere? Perché pagare l'abbonamento a una palestra e andare a faticare quando prendi 2 lire, lo fai gratis magari e ti diverti? Sono d'accordo con te, Mario, ma io lo so che il discorso è questo, si tratta soltanto di spiegarlo a loro signori. No, un'ultima cosa, il video che stavo guardando è quello di Balotelli che schiaccia, mica male, anche il tiro non malissimo, un po' storto ma come impostazione, ma non male. Ma sono rimasto sorpreso anch'io, ho visto anche quel video, ho detto ammazza Balotelli che fisico, proprio un bello stacco, schiacciata una mano di potenza. Grande Marione che credo saluterà il Milan per problemi di bilancio. Tu dici? Beh, non so se c'è qualcuno che se lo piglia. Perché... Esatto, anche quello è vero, anche quello è vero. Tanto da voi oggi arriva Osvaldo, le ragazze saranno contente, le interiste saranno contente, poi vediamo gli interisti, no, certamente un bravo giocatore. Le interiste saranno contente. Le interiste sì. Evviva. Ciao Marione, grazie. A te Carletto, ciao a tutti. Ti abbraccio, ciao Mario Boni. Dunque, ascoltatori, 800 24 00 24, oggi arriva Osvaldo. Tra domani e dopo arriva anche Medel, quindi credo che insomma, i piani dell'Inter siano compiuti con, leggevo, mercato light, molto light dal punto di vista economico, solo 4 milioni tra svincolati e dilazioni. È quello che voleva Toir, ma è stato accontentato anche Mazzarri. E ripeto, sto davvero vedendo una squadra di Mazzarri. L'anno scorso abbiamo parlato 1000 volte con Pardo. questa squadra non è una squadra di Mazzarri. Quante volte abbiamo detto questa Inter? Ah, ok, mi direte 4 agosto, 3 amichevoli, un conta nulla, e sono d'accordo. Però si vede un'altra faccia, a mio parere. Cristian Padova, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Io avevo chiamato per parlare di Tavecchio, ma Mario Boni mi ha preceduto e anche espresso molto meglio di me il pensiero. Comunque questo personaggio si è manifestato da sé e penso che lasci pochi dubbi lo spessore che porta. Se è lui che deve curare i mali della nazionale, anche diamo in mano il malato a un portantino più che a un medico. Sì, mi permetto, ecco. No, ma sono allora, questo è quello che pensiamo un po' tutti, cioè nel mondo di oggi la comunicazione non è soltanto un orpello, non è soltanto qualcosa di facoltativo, ma è qualcosa di è sostanza. E l'abbiamo detto molte volte. Non dimentichiamo però che non è una corsa personale, non dimentichiamo da chi è sostenuto questo candidato, come stanno le cose, qual è il fronte. È paradossale, ne parlavamo l'altro giorno col presidente del Torino, che ha deciso di non sostenere più, e lo sapete bene, la candidatura di Tavecchio insieme ad altri suoi colleghi. Siamo ormai a circa la metà della Serie A, e Cairo giustamente parlava del rischio di una Serie A spaccata. E questa situazione verrà portata in Lega. È paradossale come presidente federale venga o verrà eletto, anche se oggi anche su quel fronte c'è da registrare sempre una notizia che è di cronaca, perché questa mattina c'era, ora ve la cerco e ve la dico, c'era il consiglio della Lega Pro. Ebbene, anche quel fronte non è più così compatto. Non so cosa verrà deciso, ma in Lega Pro posso dire che non esiste un fronte compatto per Tavecchio. Questo l'ha detto il direttore sportivo del Benevento Salvatore Di Somma, presente appunto a Firenze all'assemblea della Lega Pro. Per quanto mi riguarda, aggiunto Di Somma, io sono favorevole alla candidatura di Albertini, che ritengo una persona onesta e per bene. Quindi anche quel fronte non è poi così compatto, bisognerà contare i voti, eccetera. Non dimentichiamo però che insomma c'è un fronte di elettori di Tavecchio che è quello su cui alla fine bisognerà discutere, perché lui tiene la sua candidatura, ha deciso di andare avanti, e sono anche convinto di quanto ho detto, cioè del fatto che lui ha usato un solito paragone un po' così, un po' naif, quello che abbiamo fatto sentire all'inizio: è stato trattato peggio dell'assassino di JFK, che poi, ripeto, Harvey Lee Oswald, sapete per la storia che fine ha fatto. Però davvero tutti quanti, dal punto di vista mediatico, gli abbiamo fatto un discreto mazzo a quel candidato. Davide Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccomi qua, grazie per la convocazione. Grazie a lei, dica. Ma io volevo fare due parole un attimino sul discorso di Milan e Balotelli in particolar modo. Uh-huh. Io sono convinto che sia il più forte giocatore che il Milan ha in questo momento, fino a prova contraria. Uh-huh. Venderlo, tra parentesi, svenderlo non mi sembra una mossa intelligente, anche perché con eventuali 18 milioni non è che si possa comprare chissà cosa, tra parentesi. E poi vogliono vendere De Sciglio, vendiamo tutti e dopo dobbiamo confrontarci. Ma Davide, io capisco, si tratta di definire i competitor, se che vita vuol fare il Milan in questa stagione, al di là dei colori della maglia, dei titoli, del palmarès, della squadra più titolata al mondo. Il problema è che, allora, quanti giocatori secondo lei il Milan può mettere sul mercato con la speranza di fare dei soldi? Ah, veramente un paio, non di più. Esattamente. E sono quei due, che De Sciglio in partenza si era parlato qualche mese fa, ma non sembra sul mercato, almeno lui. Balotelli è sul mercato, ed è inutile girarci intorno, è sul mercato, solo che è il momento peggiore per venderlo, semplicemente questo, perché è reduce da un mondiale storto, da un sacco di polemiche, da una stagione discreta ma non di più, e quindi se vuoi, detto molto brutalmente, se vuoi fare dei soldi con la cessione di Balotelli, non è questo il momento giusto. Detto questo, se il Milan trova qualcuno che gliene scuce, diciamo 22-23, Balotelli lo lascia partire. Il problema è chi è in grado di pagare quei soldi. Io non lo so, anche perché il giocatore vuole un ingaggio molto elevato, prende un ingaggio molto elevato al Milan, un ingaggio mi sembra sia sui 4 milioni e mezzo. È chiaro che se Seraola lo porta via, lo porta via per guadagnare di più, e tutte queste cose, tutti questi giochetti li conosciamo. Il Milan più che altro ha un monte ingaggi come al solito spropositato, perché leggete sui giornali tutti i giorni: ma questa storia di Robinho, ma come mai Robinho non trova una casa, non va via, non trova un accordo, una trattativa che sembra infinita? Lo sapete perché? Perché becca 4 e mezzo anche lui, e quindi trovate qualcuno in giro per il mondo che dia 4 milioni, ai soldi non rinuncia nessuno, che dia 4 zucche e mezzo a Robinho. Non è facile, eh? Paolo, Padova, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Una precisazione riguardo Balotelli. Io, se ben ricordo, Balotelli è stato pagato 24 milioni e tutti avevano fatto i complimenti a Gagliani all'epoca, da pagare in 4 anni a 6 milioni l'anno. Quindi Balotelli ad oggi è stato pagato 12 milioni, cioè il Manchester ne avanza ancora 12 a spanne. Ora, credo che quel conto sia stato chiuso e comunque l'operazione è stata messa a bilancio. In ogni caso il Milan praticamente Balotelli l'ha pagato, e quindi a me la perplessità stava, ho detto in realtà non gliene rimarranno in tasca 18 dalla vendita, ma bensì il risparmio dell'ingaggio, quindi 9 milioni lordi più. Al Milan rimarranno in tasca i soldi che prenderà dalla cessione di Balotelli. Rimarranno... Se dice che è stato pagato per intero, sì. Allora diciamo che l'operazione è stata chiusa, quindi se il Milan vende Balotelli si tiene i soldi e può investire quei soldi sul mercato. Però ripeto, suona abbastanza strano come. Punto primo, si continua a parlare di attaccanti o di esterni, da Cercia, da Vezzi, ma credo che siano in questo momento discorsi abbastanza senza fondamento, vista la politica del Milan, i soldi che il Milan ha in tasca. Quindi sì, non credo che in questo. Però mi pare che abbia dimostrato più volte nelle continue rinascite il giocatore, l'uomo più che altro, cioè Balotelli, che non abbia voglia. Non so, ha un atteggiamento un po' cassanesco, ecco, se posso esprimere, sempre colpa degli altri. Ho capito, è colpa degli altri, però a questo punto anche lui si gioca la carriera in questa stagione, no? Perché poi se vuole andare in giro a chiedere quei soldi al di là di quelli che prende il Milan, allora poi devi dimostrare quello che vale. Anche Balotelli sa perfettamente come in questo momento le sue quotazioni come giocatore, non come giocatore del Milan, come giocatore tout court, siano chiaramente in ribasso. Ragazzi, sentiamo domani dalle 2 alle 3 in diretta con voi. Grazie a Claudio Schettone in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ciao a tutti.